Salva Danaio con Simone Spezia. Le 12, 14 minuti e 56 secondi. Buona giornata, gentili ascoltatori, da Simone Spezia e benvenuti a questa puntata di Salva Danaio, che come vi abbiamo detto nel giornale radio e come avete anche intuito dalla musica, sarà dedicata alle vicende greche. Questa mattina è arrivata la notizia ufficiale sul risultato ufficiale dello swap, ossia dell'operazione, la mettiamo molto semplice, poi spiegheremo naturalmente nel corso della puntata, dell'operazione per la ristrutturazione del debito greco. I creditori privati hanno aderito all'85%, poco sopra l'85%. Questo non chiude completamente la partita, però, perché la soglia sopra il 90% sarebbe stata la migliore per non far scattare le cosiddette clausole di azione collettiva, e verremo al dettaglio anche su queste. Giornata di mercati che vede il FTSE MIB che continua a peggiorare, -1,17% in questo momento, il FTSE OSHARE che cede un punto percentuale, mentre il resto d'Europa va decisamente meglio. Parigi cede lo 0,24%, Francoforte guadagna lo 0,10%, Londra è in lieve calo dello 0,08%. Lo spread, ossia la differenza di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, si riavvicina a quota 300 punti, a 297 per essere esatti, dopo essere sceso sotto quota 290 nel corso della mattinata. Per quanto riguarda il rendimento dei titoli di Stato a 10 anni italiani, è al 4,75%. Dunque, veniamo alle questioni che riguardano più propriamente la Grecia. Vi ricordiamo che il numero per intervenire in diretta è l'800 24 00 24, e quello via SMS il 349 238 6666. Il più grande swap, il più grande scambio, diciamo così, di titoli della storia, 206 miliardi di euro, di cui 18 miliardi in mano a piccoli risparmiatori, e si calcola un miliardo in mano a quelli italiani, ammesso che non se ne siano già liberati. Dunque, questa trasmissione naturalmente è anche per loro e non solo, vedremo anche di ampliare ulteriormente il discorso. Saluto innanzitutto Vittorio Darold, collega del Sole 24 Ore. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Vittorio. Come sapete, è la nostra guida, lo sapete anche dai giornali radio e da Focus Economia, quando si parla di Grecia, perché il paese lo ha frequentato parecchio per lavoro in questi ultimi mesi ed è quello che se ne occupa là al Sole 24 Ore. Saluto Marco Vinciguerra, esperto obbligazionario e fondatore di Tocos, società di consulenza specializzata nel mercato obbligazionario. Buongiorno Vinciguerra. Salve a tutti, buongiorno. E buongiorno a Salvatore Graziano, direttore di moneyreport.it. Buongiorno Graziano. Buongiorno a tutti. Allora, inizierei da Vittorio Darold, al quale chiediamo innanzitutto un aiuto proprio su quel tema che dicevamo in apertura. Allora, tra il 75 e il 90% di adesione a questa ristrutturazione del debito greco da parte dei debitori, dei creditori privati, c'è la possibilità di far scattare queste clausole di azione collettiva. Che cosa si intende? Sono regole che servono a rendere, che scattano, che servono a rendere obbligatorio lo scambio dei titoli di Stato, dei vecchi titoli di Stato greci con quelli nuovi, anche per chi ha questa operazione ha deciso di non aderire. Quello che voglio capire da te, posto che appunto giusto per dare un quadro ulteriore, questo scambio di titoli prevede perdite nominali pari al 53,5%, ma reali intorno al 74%, e anche questa è una questione sulla quale vorrei tornare e chiedere ai nostri esperti, che cosa cambia se scattano queste clausole di azione collettiva, Vittorio? Allora, dobbiamo fare un po' di aritmetica per capire che le regole del gioco di questa partita, anche perché sono regole che se non capiamo le subiamo, come spesso succede in tutti i casi, quindi la complessità a volte serve, ma per appunto cercare di capire cose che poi possono... Regola che vale per tutte le cose della vita, in questo caso naturalmente ci interessa, perché qualcuno dei nostri, appunto un miliardo di euro dei nostri risparmiatori hanno puntato su questo, quindi ci saranno numerosi italiani che hanno voglia di capire. Cosa succede allora? Sono 206 miliardi in bond in mano ai privati, sia gli investitori istituzionali sia appunto i piccoli. Di questi dobbiamo dividere in due parti, sono quelli i bond che sono sotto legislazione greca e sono 177 miliardi, di questi 152 hanno aderito, quindi abbiamo una percentuale di adesione dei bond greci, chiamiamoli 85,5%. Su questo, dato che hanno superato il 70%, possono scattare le clausole di azione collettiva. E questo, da quel che abbiamo compreso, lo decide la Grecia insieme alla cosiddetta Troica, che è questo gruppo composto da Banca Centrale Europea, Fondo Monetario Internazionale e Commissione, no? Sì, esattamente, perché c'è stato un accordo politico, cioè i grandi creditori hanno detto, prima di fare un'azione del genere che ha ripercussioni molto gravi anche a livello, diciamo, di mercati internazionali, dobbiamo insomma coordinarci. Guarda caso, oggi alle 2 c'è una teleconferenza proprio dell'Eurogruppo, cioè dei ministri dell'Eurozona, che dovranno decidere a se dare o via libera alla tranche, alla prima tranche del secondo piano d'aiuti da 130 miliardi. E un punto era appunto il fatto di fare questo accordo. Due, probabilmente potrebbero anche dire qualcosa su questa eventualità. Perché? Perché Atene aveva anche dei bond internazionali, 29 miliardi, solo 20 hanno aderito, quindi c'è una percentuale più bassa in questa seconda famiglia, diciamo, di bond, sono il 69%. Qui le CAC non possono scattare, ma Atene ha in qualche modo allungato i termini per poter aderire e dice... Pensateci bene, perché io è vero che non vi posso fare scattare le CAC perché non abbiamo raggiunto la quota, la soglia del 75 minimo, ma vi faccio capire che non ho soldi, nel mio piano non è previsto il rimborso, insomma minaccia di non pagare, e quindi è una ulteriore, diciamo, fronte che resta aperta. Ma vediamo la domanda che mi avevi fatto: se scattano le CAC sui bond greci, perché Atene vuole farli scattare? Perché Atene ha promesso, o si è messa naturalmente in linea con una riduzione di 107 miliardi, cioè i 206 miliardi totali li vuole ridurre, l'obiettivo quindi è di ridurre di 107 miliardi il suo debito, ma se fa scattare le CAC si avvicina a questo obiettivo. Perché? Perché i famosi 152 di cui dicevamo dei bond greci arrivano a 177, aggiunti ai 20 miliardi che già hanno incassato arriva a 197, insomma facendo l'haircut del 5,3% arriviamo a 104,4 rispetto a 107, mancherebbero poco, ecco perché ci punta, ma a questo punto tutti temono che le CAC possono fare il cosiddetto credit event, e anche qui, guarda caso, oggi a Londra alle 2 si raduna l'ISDA, che è l'associazione che deve decidere se questo è un credit event o meno. Allora, questione complicatissima, il credit event, tra l'altro la decisione sul credit event coinvolge i cosiddetti credit default swaps, che cosa sono? Sono dei derivati, ma per dirla ancora più semplice sono una sorta di assicurazione sul fallimento di un paese. Allora vogliamo semplificare ulteriormente le cose e io quindi coinvolgo a questo punto Marco Vinciguerra, come si dice esperto obbligazionario e fondatore di Tocos, che è una società di consulenza specializzata nel mercato obbligazionario, e gli chiedo di spiegarmi molto semplicemente: poniamo che io sia un investitore privato, ho aderito a questo, ci dite, evitate le parole inglesi, a questo swap che cos'è? Vuol dire semplicemente scambio, cioè ho dei vecchi titoli greci e li scambio con dei titoli nuovi che valgono molto di meno. E questa è la ristrutturazione del debito, detta in parole molto semplici. Allora, mettiamo che io abbia 10.000 euro, oppure faccia lei la cifra, di vecchie obbligazioni di Stato greche, aderendo a questo swap, a questo scambio di titoli, che cosa mi ritrovo in mano il giorno dopo? Rispondo subito con un numero che può fare impressione, ma è reale. Mi ritrovo in mano con 24 nuovi titoli. I 24 nuovi titoli sono così formati: per ogni 10.000 euro di obbligazioni, nominali di obbligazioni greche che possedevo, mi ritroverò due obbligazioni garantite da questo fondo salva stati FSF, insomma, con scadenze un anno e due anni, per un totale su 10.000 di 1.500 euro nominali. Dopodiché il restante che mi spetta, cioè la differenza tra 15 e 46 e mezzo, che è quanto mi ridanno in termini nominali, perché io subisco un taglio del mio credito del 53,5%, quindi da 10.000 sì, mi levano 5.300 sì, mi ritrovo con 4.000 mi ritrovo con 4.600 euro e qualche spicci, 4.650 cioè euro nominali, sì, così formati. 1.500 euro nominali sono divisi in due bond, sì, due obbligazioni, quindi da ognuna da 750 euro nominali, sì, garantite dal fondo salva stati, sì, ok, il fondo poi, salva stati europeo, insomma europeo, sì. Poi il fondo salva stati mi dà un'altra specie di bot per gli interessi che la mia vecchia obbligazione della Grecia aveva in pancia, sì, ed erano stati maturati ma non mi vengono pagati, le cosiddette cedole, i ratei, okay, insomma, e fanno tre obbligazioni. Quindi la cedola viene sostituita da una nuova obbligazione. Sì, la okay, parte di interessi che la mia obbligazione fruttava e che la Grecia mi doveva pagare mi viene remunerata con una nuova obbligazione che è un bot del fondo salva stati. Poniamo, okay, se questa cedola era del 4%, ipotizziamo, e scadeva oggi, ho su 10.000 euro 400 euro di questa nuova obbligazione e fanno tre. Poi ho un titolo legato all'andamento dell'economia greca con caratteristiche ancora piuttosto nebulose, ma che paga al massimo l'1% all'anno dal 2015. Cioè questo mi scusi, questo nella speranza evidentemente che la Grecia passi ad una crescita di almeno l'1% nel 2015, che cosa tutt'altro che scontata, peraltro. Questo titolo è analogo nella fattispecie al titolo che venne riconosciuto ai risparmiatori, agli obbligazionisti dell'Argentina, è il cosiddetto titolo PIL. Okay. E poi per il nominale residuo, 3.150 euro, invece ho davvero delle obbligazioni greche, solo che ne ho 20. Sì. Divise all'incirca per 5% all'anno, ecco. Sì. Cioè, quindi con scadenze, mi scusi, 20 vuol dire con scadenze nei prossimi 20 anni, cioè ciascuna di queste 20 ha una scadenza nei prossimi 20 anni? No. No, mi scusi. No, ciascuna di queste 20 ha scadenze a partire dal 2023 a terminare nel 2042. Okay. Quindi, con scadenze lunghe 20 anni, ma che cominciano nei prossimi tra 10 anni. Ok. È uno scambio complicatissimo. Sì. E evidentemente il mio commento è che è stato pensato per investitori istituzionali. Naturalmente. Allora, io la fermo qua, Vinci Guerra, perché è veramente complicatissimo. Noi abbiamo già due telefonate in diretta, proprio esattamente su questi temi. Noi le sentiamo, poi andiamo in pausa e rispondiamo agli ascoltatori. Innanzitutto Benedetto che ci chiama da Varese. Buongiorno Benedetto. Buongiorno. Prego. Comunque, tutto sommato, la pensiamo tutti che questo è veramente un furto. Infatti io non ho aderito né allo scambio né all'espressione di voto. Poi io, quando mi ridaranno i soldi, sono anche morto, non so, ma cioè, non so, sembra la barzelletta, o sbaglio? Cioè, sono morto io nel 2040, eccetera, cioè, non ho capito. Comunque, io volevo fare la domanda. Siccome non ho aderito e né di scambio nell'espressione di voto, se ho qualche minima possibilità di recuperare tutto a sto punto. Perché se la Troica non dà il consenso di ai CD le clausole. Se non dà il consenso, forse una speranza che recupero tutto o no. Non so, chiedo all'esperto. Adesso gireremo questa domanda. Intanto Benedetto, non so quanti anni abbia, ma non metta limiti alla provvidenza, e sentiamo Enrico che ci chiama da Treviso. Enrico, buongiorno. Buongiorno, mi sente? Sì, perfettamente, prego. Buongiorno. Io non sono come si può dire coinvolto in niente di tutto questo, però mi chiedevo, per sua fortuna, avrà pur comprato i CDS? Se sì, quanti miliardi di euro sono assicurati? E mi domando, ma stanno difendendo chi gli assicuratori o la Grecia? Allora, perché qualcuno dovrà pur pagare. Guardi, tra l'altro la questione dei CDS, dei credit default swaps, lo ripetiamo ancora una volta perché poi sono sempre parole piuttosto difficili, sono di fatto delle assicurazioni, dei derivati, ma in realtà sono delle assicurazioni nella sostanza sul rischio di default di un paese. C'è su questo una questione ancora piuttosto aperta, e dipende anche appunto dal varo delle cache, dalle decisioni di oggi delle quali ci parlava Vittorio Darold dell'ISDA, l'associazione che determina il cosiddetto credit event. Come sentiamo, continuano ad essere cose piuttosto complicate. Le 12:37 minuti e 5 secondi, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. C'erano un paio di domande di ascoltatori che stanno arrivando, che sono arrivate prima della nostra pausa. Ce ne sono altre che stanno arrivando tra l'altro via SMS e che poi girerò ai nostri esperti. Stiamo parlando di Grecia, dello swap, dello scambio tra i vecchi titoli di Stato e i nuovi titoli obbligazionari, che non sono solamente titoli di Stato greci, che scatteranno con l'ok della stragrande maggioranza dei creditori privati al piano di ristrutturazione del debito greco. Vorrei coinvolgere a questo punto Salvatore Gazziano, direttore di moneyreport.it, che abbiamo al telefono con noi, per rispondere alla domanda di Benedetto, che ci ha chiamato prima da Varese e insomma ha in portafoglio titoli greci, ha deciso di non aderire e vuole capire che cosa gli succede. Certo, allora innanzitutto vi auguriamo buona lunga vita, come hai fatto correttamente. Peraltro anche non gli basta anche una vita sufficiente affinché gli vengano consegnati i titoli, e potrà naturalmente, si spera che essendo titoli che verranno quotati, si ipotizza, li potrà vendere sul mercato prima delle scadenze. Quindi questo è un punto molto importante da sottolineare, non è che bisogna aspettare il 2023 o il 2043. Cioè, certo, li puoi anche incamerare e venderli subito. Esatto, se vuoi. Come avrebbe potuto fare anche in questo periodo. Detto questo, certo, come avete spiegato molto bene e puntigliosamente, in maniera ottima, Darold e Vinci Guerra, la situazione è molto complicata, però ancora si spera che nei confronti dei piccoli risparmiatori, dei privati, perché c'è stata molta confusione, come sappiamo, su questo termine, perché per lunghi mesi si è detto che i privati non avrebbero dovuto partecipare alle perdite, e per privati, facciamo facendo capire che erano i piccoli risparmiatori, e poi questa settimana dal cilindro hanno tirato fuori questo coniglio che si spera che adesso non vogliano accoppare del tutto. E quindi la speranza è che a questo punto la Grecia, ma in realtà non solo la Grecia, ma la cosiddetta Troica, BCE, Fondo Monetario Internazionale e Unione Europea, non decidano di passare all'incasso della clausola di azione collettiva. Ed è, secondo me, sarebbe, non per fare demagogia, ma nei confronti dei piccoli risparmiatori, sarebbe un onere non elevatissimo, perché si parla che comunque tutti i privati, è stato stimato che possedevano circa un 7-7,5% dei bond greci in circolazione, quindi 14-15 miliardi, e considerando che se venissero rimborsati al nominale a 100, significherebbe, rispetto a far esercitare lo swap, tirare fuori, che poi non li tira fuori la Grecia, quindi mi fa ridere quando dice la Grecia vuole, non vuole, perché in realtà ormai la Grecia ha dei tutori molto solidi che in realtà sono l'Unione Europea e dalla Merkel in giù, e quindi c'è questa speranza che sarebbe una norma elementare, perché sarebbe un gesto molto ma molto feroce, cattivo e veramente spietato a questo punto, far pagare di fatto la ristrutturazione del debito greco ai risparmiatori privati, al cosiddetto retail, perché sia chiaro, le banche è vero che da una parte hanno subito, quelle che hanno aderito a questo taglio, ma hanno ottenuto delle compensazioni molto forti, hanno ottenuto la possibilità di avere denaro a pioggia a condizioni eccezionali, hanno ottenuto la possibilità di portare i loro titoli a garanzia. Però il punto, i risparmiatori cosa hanno ottenuto in garanzia? Mi scusi Gazziano, però il punto è questo, perché ci scrivono alcuni ascoltatori, sì. Ad esempio, sono un piccolo risparmiatore che non ha aderito allo swap essendo possessore di obbligazioni scadenza maggio 2012. Cosa mi succede? Se non mi rimborsano, posso fare causa alla Repubblica Greca e alla Troica? Allora, prima di tutto adesso si aspetta un secondo giro di carte, questo deve essere, cioè, nel senso che non è che qua è finita. Adesso a questo punto, e credo che anche Vinci Guerra possa confermare, verrà di nuovo fatta una nuova proposta a coloro che non hanno aderito, e dovrebbe essere, si ipotizza, se non uguale, leggermente migliorativa. E quindi, diciamo, una volta vista questa, se realmente vengono utilizzate le clausole peggiori, cioè che quindi devono partecipare anche loro di fatto al bagno di sangue senza compensazioni, certo ci sarebbe da valutare da parte dei risparmiatori, magari attraverso delle associazioni, l'ipotesi di fare causa, anche se poi sappiamo benissimo per esperienza che i piccoli risparmiatori, come ha dimostrato anche questo caso, lontano non vanno, mentre invece purtroppo, e proprio oggi su 24 ore c'è un bel articolo riguardo la situazione argentina, magari gli hedge fund che fanno causa al governo argentino dopo 10 anni ottengono parziale ragione, anche se anche lì la vicenda, certo, è ancora in corso, perché si tratta, certo, poi di spese legali da sostenere, però, non da poco. Esatto, poi bisogna avere la pazienza, sì, e la forza di mettersi, certo, 10 anni, cosa che un hedge fund può fare, un piccolo risparmiatore, esatto, sì, no. Sì, sì. E rischia che per ottenere un rimborso del nominale ne spenda forse magari di più per ottenere la giusta compensazione. Diciamo a Roberto che ci scrive sul fil di battuta, no, non può portarli alla BCE e ottenere un finanziamento all'1% come invece hanno fatto. È quello che dicevo anch'io, assolutamente. Come invece hanno fatto, una provocazione. Come invece hanno fatto le banche. Allora, sarebbe assurdo se veramente, sì, cioè, o almeno non dico che si rimborsi il 100, però la soluzione che hanno suggerito alcuni, fra cui anche, sì, Marco Vinci Guerra, di offrire una soluzione all'Italia, cioè di dire ai piccoli risparmiatori offriamo un compenso fino a 100.000 euro, quello potrebbe essere già un punto di, certo, equilibrio, certo, chiarissimo, magari... chiarissimo. Gazziano, la interrompo, ci sono altri ascoltatori che ci scrivono sulla famosissima scadenza, quella del 20 marzo, cedole, i titoli con scadenza con cedola il 20 marzo. Vinci Guerra, che cosa succede a costoro, visto che siamo proprio a ridosso? La stessa cosa? Io sono molto sincero, sono un esperto ma non lo so, nel senso che intanto bisognerà vedere se queste clausole di azione collettiva, che in pratica estendono l'efficacia dello swap accettato, del concambio accettato in questi giorni dagli investitori, chiamiamoli istituzionali, mentre i risparmiatori io li chiamerei investitori individuali, ecco. Se invece questo concambio in forza di questa norma introdotta nella legislazione greca a febbraio, vengono effettivamente estesi anche ai possessori delle obbligazioni greche che non hanno aderito allo scambio, noti con un comportamento che era ragionevole, perché non aderire a questa proposta, che è una proposta, insisto, volontaria e non ultimativa, voleva dire, nella peggiore delle ipotesi, essere trattati appunto come chi aderiva, mentre chi non ha aderito ha ancora questa piccola speranza, o grande, vedremo, che no, io non so quantificare, cioè che non scattino le clausole, che venga fatta una nuova offerta, non faccia scattare le clausole, che in termini nei consessi europei che sono preposti, greci europei che sono preposti all'esercizio di questa norma, prevalga un'opinione di tipo politico che dice, va bene, anziché far scattare le clausole per questi soggetti che non hanno aderito, che non hanno un volto, non hanno un nome, sono una quantità di denaro, in questo ha ragione Gazziano, di poca rilevanza sulla ristrutturazione del debito greco e soprattutto sulla portata in anni di questa ristrutturazione, perché si parla di una ristrutturazione che coinvolge prestiti che scadranno nel 2042, sì, con tracci di aiuti. Se questo piccolo tassello non abbia ragioni di opportunità di ordine politico, per cui per esempio è meglio non penalizzare il cittadino greco che aveva 10.000 euro di obbligazioni e poi magari è stato licenziato, oppure il cui figlio è stato licenziato perché lavorava nella pubblica amministrazione, che ha subito già una patrimoniale sulla casa e ha un patrimonio immobiliare, la sua casetta, che si è svalutata molto, per cui a questo si aggiungerebbe un danno importante. È anche vero che è logico che quindi è possibile che non vengano attivate. Se non vengono attivate, i bond, le obbligazioni che scadono il 20 marzo vengono evidentemente pagate, perché questa offerta di scambio che si è appena conclusa e a cui hanno aderito l'86% circa dei possessori, era un'offerta di tipo volontario. Allora la fermo, sono le 12:46, siamo lievemente in ritardo con la viabilità che adesso diamo, poi sentiremo altri ascoltatori e poi vorrei fare con Vittorio D'Aroldo un punto invece sui cosiddetti credit default swaps, anche quelli legati alle vicende che abbiamo parlato. Le 12:48 minuti e 42 secondi, tra un attimo sentiremo le vostre domande, però vorrei andare da Vittorio D'Aroldo del Sole 24 Ore, che dopo l'apertura abbiamo lievemente trascurato, per chiedergli invece la questione dei credit default swaps, e ti chiedo di essere piuttosto breve, Vittorio, che abbiamo pochi minuti, però per chiarirci che cosa succede a questa sorta di assicurazioni sul default, sul rischio di fallimento di un paese. Sì, esattamente, allora per far scattare, appunto abbiamo detto prima, possono far scattare delle CAC, quindi queste azioni collettive, in alcuni casi se ci fosse questo, l'ISDA, che è questo organismo che si raduna oggi a Londra, potrebbe dire sì, è un credit event, cioè un evento che in questo caso fa scattare le assicurazioni. Questa è una decisione molto importante e staremo a vedere che cosa decide. Se decidessero appunto che questo è un credit event, questo aprirebbe la strada al rimborso di queste assicurazioni, i CDS tanto famosi. Sulla Grecia ce ne sono 3,25 miliardi di euro, quindi non è un'entità enorme, ma come nozionale, quindi diciamo come lordo, si arriva a circa 70 miliardi, e questo forse è l'implicazione che preoccupa un po' di più, cioè qui sarebbero altre banche che dovrebbero pagare e questo creerebbe un ulteriore problema. Diciamo di tipo, come sempre, contagio, perché la Grecia è sempre piccola, è sempre una situazione piccola, però ricordiamoci, è 5 volte quella dell'Argentina. Certo. Allora, chiarissimo Vittorio, abbiamo Antonio che ci chiama da Padova, anche lei breve, Antonio, per favore, buongiorno. Sì, buongiorno, salve Simone. Una cosa, io ho 55.000 euro di valore nominale, scadenza 2040, e io non ho, con la banca praticamente non mi sono fatto sentire per questa questione qua. Cioè io non voglio vendere, non voglio aderire a questa cosa qua, io voglio semplicemente che i miei bond rimangano lì, o perché o fa default o non fa default, mi devono rimanere lì, piuttosto li perdo, mi dureranno non so cosa, ma perché devo fare una cosa volontaria che poi non è volontaria? Penso a contro le norme, cioè cosa vuol dire sta roba chiarissimo, qua? Chiarissimo Antonio, anche Giorgio da Milano, anche lei rapidissimo Giorgio. Sì, buongiorno, ma è semplicissimo, buongiorno. Visto che non ci si può più fidare né delle grandi industrie né tantomeno degli stati sovrani, invece che fare le formiche forse è meglio fare le cicale, spendere, e forse potrebbe dare un aiuto all'economia se quando è in recessione, visto com'è la situazione. Lei ha precedenti esperienze negative, per così dire? Altro che, se i miei che ne abbia in gloria, gli ho comprato Argentina, Parma, Cirio, adesso Grecia per conto mio, cioè voglio dire, ma di chi ci si deve fidare? Forse, insisto, è meglio spendere e fare le cicale ogni estate, cantare invece che fare. Allora, come sentiamo anche valutazioni generali, però chiederei a Salvatore Gazziano, direttore di Money Report, di rispondere ad Antonio da Padova, appunto, che ci chiama da Padova e ci parla di questi 55.000 euro di bond greci. La situazione è sempre sua, cioè, le espressioni amare che fa. Mi scusi Gazziano, è quello che abbiamo detto finora, cioè una situazione ancora sospesa, perché finché non si sa se scattano le CAC queste clausole oppure no, non è la posizione di chi non ha aderito non è chiara. Potrebbe esserci anche un lieto fine, anche se un lieto fine che venga rimborsato a 100, anche se siamo un po', non dico pessimisti ma realisti, su una scadenza 2040 temo che di ulteriori piani di ristrutturazioni o situazioni di sofferenza del debito greco potremmo andarne a riparlare, quindi visto la scadenza lontana, insomma, bisognerebbe poi valutare anche quello. Sul fatto che questa sia un qualcosa di poco volontario da un certo punto di vista, perché se tu non accetti, di fatto ti viene puntata la pistola e devi accettare, di fatto è così, e purtroppo per quanto simpatico e comprensibile l'atteggiamento donchisciottesco del risparmiatore, comprensibile, di fatto se poi vengono cambiate le clausole uno può contestarlo o meno, ma però poi rischia che quei titoli, se lo si vuole tenere una cassaforte, cioè lo scambio, cioè te lo fa lo stesso, lo e lo stesso, sì, non è che non, se lui si impunta come un mulo non lo fanno lo swap, magari. Chiarissimo. Allora, brevissimamente, in un minuto invece, mi rivolgo a Vinci Guerra per chiudere. Ci scrive un ascoltatore: nessuno dice che questa buffonata non ha risolto niente. Ora, al di là del linguaggio colorito, è vero che le preoccupazioni non si sono esaurite, se si considera che Citigroup sta già immaginando per il Portogallo un taglio del un haircut del 50%, cioè un taglio del valore, una ristrutturazione in stile greco per il 50% del valore delle sue obbligazioni, insomma, cioè come dire, non ne siamo fuori, insomma. Sì, allora qualche commento banale. Citigroup scopre l'acqua calda, perché le obbligazioni del Portogallo, quelle a media scadenza 8-9 anni, valgono già 50, quindi il mercato incorpora il fatto che è possibile che non me ne diano metà. Cioè, quindi è un'analisi un po', un po' colorita, però diciamo, è la constatazione di quello che è il consenso del mercato. Per quanto riguarda la Grecia, invece, io direi che qualcosina si risolve. Immaginiamo di avere un mutuo e immaginiamo di essere una famiglia. Immaginiamo che più di metà non siamo obbligati a restituirlo e l'altra metà viene scadenzata a molto tempo di distanza, quindi abbiamo tempo per, fatte le dovute casi e proporzioni, riorganizzarci. Ricordo che la prima scadenza di obbligazioni nuove, cioè quelle relative allo swap, quindi un po' consistenti, è nel 2023 e quindi da qui al 2023 potrebbero esserci sono in effetti piccole piccole sorprese. Beh, sul insomma, fronte economico. In effetti, oggettivamente sono 11 anni. Noi dobbiamo davvero chiudere questa trasmissione, anche se ci sarebbe molto da dire. I ringraziamenti a Vittorio Darol del Sole 24 Ore, Marco Vinciguerra, esperto obbligazionario e fondatore di Tocos, società che di obbligazioni si occupa, Salvatore Graziano, direttore di Money Report. Gli altri ringraziamenti, Roberto Scaltritti e Alessandro Chiappini in regia, Gloria Guerrera e Marco Lombardo in redazione. Grazie a tutti voi per l'ascolto, da Simone Spezia, e buona giornata.